Ma quello sicuramente, tieni conto che tra l'altro ovviamente lo scopo dei concorsi in generale è quello, no? È quello comunque di fare una classifica, e su quella classifica il consumatore, il blogger, quello che scrive di cibo, di vino, eccetera, chiaramente fa le sue considerazioni. Io continuo a dire, sia il concorso nostro, quindi Birra dell'anno, sia il concorso a cui partecipano tanti nostri birrifici, contribuiscono a creare un'attenzione che si potrebbe creare anche in altre maniere, ma questa è più diretta, come dicevo prima, più adrenalinica in qualche modo, più coinvolgente sul mondo delle nostre birre. Quando un birrificio italiano nostro vince in un'importante competizione internazionale, lui vince. È certamente quello che va sui giornali, ne ricava e ne riceve certamente una visibilità molto importante, ma di riflesso questo tipo di visibilità ricade su tutti i birrifici italiani, perché si parla di birra italiana. Tu hai intervistato Riccardo, continua a ripetermi, ma l'interpretazione che Riccardo Franzosi fa delle sue birre e le sue birre in giro per il mondo, oppure il blogger che viene in Italia e assaggia le sue birre, di conseguenza sarà certamente interessato a valutare e esplorare tutto il mondo della birra artigianale italiana, per dire ci sarà un altro Riccardo Franzosi in giro, probabilmente, o magari qualcun altro che a modo suo avrà reinterpretato in modo sorprendente e assolutamente coinvolgente il metodo di far fare birra, però le proprie birre chiaramente le produrrà secondo una propria personalità che noi qua non conosciamo e quindi è molto importante questo. Ottimo Simone, io ovviamente, Birradio ovviamente continuerà a seguire da più che vicino il concorso di Birra dell'anno, dovremmo avere una sequenza di appuntamenti diciamo, abbastanza frequenti da qui a Birra dell'anno, anche grazie a questa collaborazione, e ovviamente ti strappo la promessa di ritornare nel nostro studio virtuale per parlarne a te e anche ai collaboratori di Union Birrai per questa iniziativa. Grazie Certo, ti ringrazio, ci mancherebbe. Più che volentieri. Simone, allora a presto. A presto, ciao Tony. Birradio, Birradio, Birradio, Birradio, Birradio, Birradio.